Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nei Vangeli la figura di San Giuseppe compare molto di rado. Ci sono però due scene nelle quali è protagonista ed entrambe riguardano il Natale. La prima è quella della cosiddetta Annunciazione a Giuseppe. Dopo aver constatato che sua moglie era incinta, non volendola ripudiare pubblicamente, decide di farlo in privato. Ma un angelo gli appare in sogno e gli spiega che il bambino viene dallo Spirito Santo. Quali sono le ragioni che guidano le scelte di Giuseppe? Lo spiega Gianfranco Ravasi in un articolo scritto per l'inserto culturale del Sole 24 Ore. Per capire il comportamento iniziale di Giuseppe nei confronti di Maria, dobbiamo entrare almeno sommariamente nel mondo delle usanze matrimoniali dell'antico Israele. Il matrimonio comprendeva due fasi ben definite. La prima è denominata Kiddushin, cioè consacrazione, perché la donna veniva consacrata al suo sposo, consisteva nel fidanzamento ufficiale tra il giovane e la ragazza, che solitamente aveva 12 o 13 anni. La ratifica di questo primo atto comportava una nuova situazione per la donna. Pur continuando a vivere a casa sua all'incirca per un altro anno, essa era chiamata e considerata già moglie del suo futuro marito, e per questo ogni infedeltà era ritenuta un adulterio. La seconda fase era chiamata Nisuin, dal verbo nasa, ovvero sollevare, portare, in quanto ricordava il trasferimento processionale della sposa che veniva portata nella casa dello sposo, un avvenimento che fa da sfondo alla parabola di Gesù, che ha per protagoniste le ancelle di un festoso corteo nuziale notturno. Questo atto suggellava la seconda e definitiva tappa del matrimonio ebraico. Giuseppe è di fronte a una scelta drammatica. Il libro biblico del Deuteronomio era chiaro e implacabile. Se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, allora la faranno uscire all'ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà a morte perché ha commesso un'infamia in Israele, disonorandosi in casa del padre. Nel giudaismo successivo, però, aveva preso strada un'altra norma più moderata, quella che imponeva il ripudio. Trattandosi già di una vera e propria moglie, si doveva celebrare un divorzio ufficiale con tutte le conseguenze civili e penali per la donna. È venuto alla luce un atto di ripudio del 111 d.C., scritto in aramaico e riguardante due sposi che si chiamavano Maria e Giuseppe. Ma ritorniamo a Giuseppe e alla sua decisione. Egli deve ripudiare Maria a causa della legge che lo obbliga a questo. Essendo uomo giusto, cioè obbediente alla legge dei padri, egli si mette su questa strada amara. Ma essendo uomo giusto, che secondo il linguaggio biblico significa anche mite, misericordioso, buono, lo vuole fare nella forma più delicata e più attenta per la donna. Sceglie la via segreta, senza denunzia legale, alla presenza dei soli due testimoni necessari per la validità dell'atto di divorzio, cioè la consegna del cosiddetto libello di ripudio. Certo, la nostra sensibilità ci fa subito dire: che ne sarebbe stato di Maria? La risposta è purtroppo chiara e inequivocabile. Sarebbe stata un'emarginata totale, rifiutata da tutti, accolta forse solo dal clan paterno assieme al figlio illegittimo che avrebbe generato. È nota a tutti, infatti, la triste situazione della donna nell'antico vicino Oriente. Ma lasciamo da parte questa ipotesi irreale e ritorniamo a Giuseppe e al suo dramma interiore, peraltro non lontano da quello vissuto da tante coppie di fidanzati. La sua oscura tensione è all'improvviso squarciata da una luce. L'angelo nella Bibbia è per eccellenza il segno di una rivelazione divina come il sogno. Se ne contano cinque nel Vangelo, dall'infanzia di Gesù secondo Matteo. È il simbolo della comunicazione di un mistero. Non temere di portare Maria a casa tua, completando così anche la seconda fase del matrimonio, Nisuin, dice l'angelo a Giuseppe. Ed è qui che scatta la grande rivelazione del mistero che si sta compiendo in Maria. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. È questa la sorpresa straordinaria che dovrà sconvolgere la vita di Giuseppe. Sorpresa molto più forte di quella di avere la propria donna incinta di un altro uomo. Si apre allora per Giuseppe una vita nuova e una missione unica. Egli, che è figlio di Davide è l'unica volta nei Vangeli in cui questo titolo non viene applicato a Gesù, dovrà trasmettere la linea ereditaria davidica al figlio di Maria nella qualità di padre legale. Potremmo dire che, come Maria è colei per mezzo della quale Gesù nasce nel mondo come figlio di Dio, Giuseppe è colui per mezzo del quale Gesù nasce nella storia come figlio di Davide. Parlavamo di due scene in cui Giuseppe è protagonista. Alla seconda dedichiamo solo un cenno. La famiglia di Gesù si scrive subito nel lungo elenco che giunge fino ai nostri giorni e che comprende i profughi, i clandestini, i migranti. Ecco infatti quando il bambino Gesù ha pochi mesi, Giuseppe immarcia con lui e con la sposa Maria attraverso il deserto di Giuda per riparare in Egitto, lontano dall'incubo del potere sanguinario del re Erode. Anche in questo caso siamo proprio agli antipodi di quel Natale bianco assurdamente prospettato da certe attuali ignoranze religiose e da isterie xenofobe. Il Natale cristiano ha, in verità, per protagonisti una famiglia di fuggiaschi e migranti con la loro storia di sventure. Il cristianesimo, scriveva nei suoi quaderni il filosofo Wittgenstein, non è una dottrina, non è una teoria di ciò che è stato e sarà nell'anima umana, ma la descrizione di un evento reale nella vita dell'uomo. Vorremmo allora far risuonare a suggello di questo Natale di Giuseppe le parole, forse un po' oratorie e magniloquenti, ma dalla sostanza inequivocabile, di uno scrittore scandaloso come Curzio Malaparte, che in un articolo del Natale 1954 ammoniva: «Tra pochi giorni è Natale, e già gli uomini si preparano alla suprema ipocrisia. Vorrei che il giorno di Natale, il panettone, diventasse carne dolente sotto il nostro coltello, e il vino diventasse sangue, e avessimo tutti per un istante l'orrore del mondo in bocca. Vorrei che la notte di Natale, in tutte le chiese del mondo, un povero prete si levasse gridando: via da quella culla, ipocriti bugiardi, andate a casa vostra a piangere sulle culle dei vostri figli. Se il mondo soffre, è anche per colpa vostra, che non osate difendere la giustizia e la bontà, e avete paura di essere cristiani fino in fondo. Via da quella culla, ipocriti! Questo bambino, che è nato per salvare il mondo, ha orrore di voi». Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi da un articolo di Gianfranco Ravasi dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. In tempi di crisi, anche una lotteria che mette in palio dei posti di lavoro può essere meglio di niente, o forse no. Quasi 200.000 sardi fra i 18 e i 32 anni hanno partecipato al gioco di una catena di distribuzione intitolato «Vinci il tuo posto di lavoro». Una bambina bendata ha estratto i quattro nomi che avranno diritto a un posto di commesso al supermercato il prossimo anno. Non è una gag, è una notizia. L'ho letta 27 volte e ancora non riesco a crederci. Non riesco a credere che il lavoro sia diventato un premio sorteggiabile, come una pentola o un biglietto della Lotteria Italia. Non riesco a credere che sia stato accolto come un successo di marketing l'immenso numero di partecipanti, spia di una situazione economica drammatica, tanto più che in palio non c'era un impiego fisso, il famoso concorso da vigile urbano, ma un lavoro precario e poco remunerato. E se anche riesco a credere, senza nessuno sforzo, che qualche managerino rampante si sia inventato l'iniziativa, non mi capacito che il sindacato l'abbia avvallata allargando le braccia. Di questi tempi è meglio di niente, ha detto un dirigente locale della CGIL. Soprattutto non riesco a credere che l'opinione pubblica digerisca un evento così avvilente per la dignità umana, senza riscuotersi dal torpore in cui sembra precipitata. Eppure l'articolo 1 della Costituzione recita ancora: «L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro». Andrebbe aggiornato: «Fondata sulla raccomandazione e sull'estrazione». L'unica alternativa possibile, a quanto pare. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, «Affondata sul lavoro», dalla Stampa del 17 dicembre.